Gilbert era come quei paesi con i quali si ha paura ad allearsi perché cambiano troppo spesso governo. Ma in fondo è uno sbaglio. La memoria del più successivo degli esseri stabilisce in lui una sorta di identità e fa sì che non voglia venir meno a una promessa di cui si ricorda anche se non l'ha controfirmata. Quanto all'intelligenza, essa era in Gilbert, con alcune assurdità di sua madre, molto viva. Ma ricordo, e la cosa non ha niente a che vedere con il suo valore intrinseco, che più di una volta durante quelle conversazioni che facevamo passeggiando mi riempì di stupore. La prima volta dicendomi: «Se non aveste troppa fame e non fosse così tardi, prendendo quel sentiero a sinistra e poi girando a destra, in meno d'un quarto d'ora saremmo a Guermantes». Era come se mi avesse detto: «Girate a sinistra, proseguite sulla vostra destra e toccherete l'intangibile. Arriverete alle inattingibili lontananze di cui su questa terra non si può mai conoscere altro che la direzione, altro che, come mai riguardo a Guermantes avevo creduto un tempo di poter conoscere, e forse in un certo senso non mi sbagliavo, la parte». Altro mio stupore fu quello di vedere le sorgenti della Vivonne, che mi figuravo come qualcosa di non meno extraterrestre dell'ingresso degli inferi, e non erano che una specie di lavatoio quadrato alla cui superficie salivano delle bolle. E la terza volta fu quando Gilbert mi disse: «Se volete, una volta usciremo di pomeriggio e allora si potrà andare a Guermantes passando per Miseglise, è il modo più bello». Frase che, sconvolgendo ogni idea della mia infanzia, mi fece scoprire che le due parti non erano inconciliabili come avevo creduto. A colpirmi di più, però, fu quanto poco, durante quel soggiorno, rivissi i miei anni d'un tempo, quanto poco desiderai di rivedere Combray, come trovai stretta e brutta la Vivonne. Ma la volta che Gilbert verificò per me certe mie fantasie sulla parte di Miseglise, fu durante una di quelle passeggiate tutto sommato notturne, benché si svolgessero prima di pranzo, ma Gilbert pranzava così tardi. Al momento di scendere nel mistero d'una valle perfetta e profonda, tappezzata dal chiaro di luna, ci fermammo un istante, come due insetti che stanno per tuffarsi nel cuore d'un calice cilestrino. Gilbert pronunciò allora, forse semplicemente per buona grazia di padrona di casa, dispiaciuta ora che state per partire di non avervi fatto meglio gli onori di quei luoghi che mostrate ad apprezzare, una di quelle frasi capaci, grazie alla sua abilità di donna di mondo che sa trarre partito dal silenzio, dalla semplicità, dalla sobrietà nell'espressione dei sentimenti, di farvi credere che occupate nella sua vita un posto che nessun altro potrebbe occupare. Riversando di colpo su di lei la tenerezza di cui mi colmava l'aria deliziosa, la brezza che respiravamo, le dissi: «L'altro giorno parlavate del sentiero in salita. Come vi amavo allora?» Rispose: «Perché non me lo dicevate? Non me ne ero accorta. Io vi amavo. E una volta vi ho anche fatto un'offerta in piena regola. Ma quando?» «La prima volta a Tansonville. Voi passeggiavate con la vostra famiglia. Io tornavo a casa. Non avevo mai visto un ragazzino così bello. Avevo l'abitudine», aggiunse in tono vago e pudico, «d'andare a giocare con certi amichetti fra le rovine della torre di Roussainville. E voi mi direte che ero alquanto maleducata, perché là dentro c'erano ragazze e ragazzi d'ogni risma che approfittavano dell'oscurità. Il chierichetto della chiesa di Combray, Théodore, che bisogna confessarlo, era molto carino, Dio che delizia che era, ed è diventato bruttissimo, adesso fa il farmacista a Miseglise, se la spassava con tutte le contadinelle dei dintorni. Dato che mi lasciavano uscire da sola, non appena potevo svignarmela, correvo là. Non so dirvi quanto avrei voluto che ci veniste anche voi. Ricordo benissimo che, avendo solo un minuto per farvi capire cosa desideravo, a rischio di farmi vedere dai vostri genitori e dai miei, ve l'ho indicato in un modo così crudo che adesso me ne vergogno. Ma voi m'avete guardata con tanta cattiveria che ho capito che non volevate saperne». E di colpo io mi dissi che la vera Gilbert la vera Albertine, erano forse quelle che si erano offerte al primo istante nel loro sguardo, una davanti alla siepe di spini rosa, l'altra sulla spiaggia. Ed ero stato io che, non avendolo capito, avendolo ripescato solo più tardi nella memoria, dopo un intervallo durante il quale, a causa dell'intercapedine di sentimenti creata dai miei discorsi, loro non avevano più osato essere franche come al primo momento, avevo guastato tutto con la mia goffaggine. Le avevo mancate per le stesse ragioni e ancora più completamente, sebbene per la verità il fallimento relativo con loro fosse stato meno assurdo, di quanto aveva fatto Saint-Loup con Rachel. «E la seconda volta», riprese Gilbert, «è stata diversi anni dopo, quando vi ho incontrato davanti a casa vostra, il giorno prima di incontrarvi dalla zia Oriane. Lì per lì non vi ho riconosciuto, o meglio, vi riconoscevo senza saperlo, perché avevo la stessa voglia che a Tansonville. Nell'intervallo, però, c'erano stati i Champs-Élysées. Sì, ma allora mi amavate troppo. Mi sentivo inquisita in tutto ciò che facevo. Non pensai di chiederle chi fosse il giovanotto in compagnia del quale percorreva il viale dei Champs-Élysées il giorno che ero andato là per rivederla e mi sarei riconciliato con lei quando ancora era possibile farlo, quel giorno che avrebbe forse cambiato tutta la mia vita se non avessi incontrato le due ombre che avanzavano fianco a fianco nel crepuscolo. Se glielo avessi chiesto, mi avrebbe forse detto la verità, come Albertine se fosse resuscitata. E in effetti, le donne che non amiamo più e che rivediamo dopo anni, non c'è forse fra loro e noi la morte, proprio come se non fossero più di questo mondo dal momento che la scomparsa del nostro amore fa di quelle che erano allora, o di quello che allora eravamo, dei morti. Oppure forse non si sarebbe ricordata o avrebbe mentito, in ogni caso, saperlo non aveva più interesse per me, perché il mio cuore era ancora più cambiato del viso di Gilbert, che non mi piaceva ormai quasi per niente. Ma soprattutto, non ero più infelice, non potevo più concepire a ripensarci d'esserlo stato tanto per aver incontrato Gilbert che camminava lentamente a fianco d'un giovanotto, per aver detto a me stesso «è finita, rinuncio per sempre a vederla». Di quello stato d'animo che era stato per me in quell'anno lontano una sola lunga tortura, non rimaneva nulla, perché a questo mondo dove tutto si consuma, tutto perisce, c'è qualcosa che cade in rovina, che si distrugge ancora più completamente e lasciando ancor meno vestigia della bellezza: il dolore. Tuttavia, se non sono affatto stupito di non averle chiesto allora con chi percorresse i Champs-Élysées, dato che avevo visto già sin troppi esempi di questa incuriosità indotta dal tempo, un poco lo sono di non aver raccontato a Gilbert che quel giorno, prima di incontrarla, avevo venduto un vaso d'antica porcellana cinese per comprarle dei fiori. In effetti, nei tempi così tristi che erano seguiti, mia sola consolazione era stato il pensiero che un giorno avrei potuto raccontarle senza alcun rischio quella mia tenera intenzione. Più d'un anno dopo, se vedevo che una vettura stava per urtare la mia, il mio desiderio di non morire era solo per poter raccontare quella cosa a Gilbert. Mi consolavo dicendomi: «Non c'è fretta, ho tutta la vita davanti a me per farlo». E per questo desideravo non perderla, la vita. Adesso, dirlo mi sarebbe sembrato poco gradevole, quasi ridicolo, e strappalacrime. «Del resto», continuò Gilbert, «anche il giorno che vi ho incontrato davanti a casa vostra, eravate talmente lo stesso che a Combré non avete idea di quanto poco foste cambiato. Nella mia memoria rividi Gilbert. Avrei potuto disegnare il quadrilatero di luce formato dal sole sotto i biancospini, la pala che la ragazzina teneva in mano, il lungo sguardo in cui m'aveva avvolto. Solo che l'avevo creduto, a causa del gesto volgare da cui era accompagnato, uno sguardo di disprezzo. Perché ciò che io desideravo mi sembrava qualcosa che le ragazzine non potevano conoscere e che facevano solo nella mia immaginazione durante le mie ore di desiderio solitario. Tantomeno avrei mai creduto che così facilmente, così rapidamente, quasi sotto gli occhi di mio nonno, una di loro avrebbe avuto l'audacia di raffigurarlo. Così, a tanti anni di distanza, fu necessario far subire un ritocco a un'immagine che ricordavo tanto bene. Operazione che mi rese abbastanza felice, mostrandomi come l'abisso invalicabile che allora avevo creduto esistere fra me e un certo genere di ragazzine dai capelli dorati fosse altrettanto immaginario dell'abisso di Pascal, e che mi parve poetica, in virtù della lunga serie d'anni al cui termine s'era reso necessario compierla. Ebbi un soprassalto di desiderio e di rimpianto, pensando ai sotterranei di Roussainville. Ma ero felice di dirmi come la felicità verso la quale tendevano allora tutte le mie forze, che niente più poteva restituirmi, fosse esistita altrove che nel mio pensiero, in realtà vicinissima a me, in quella Roussainville di cui parlavo così spesso, a cui guardavo dal gabinetto che odorava di iris. E io non ne sapevo niente. Riassumeva in sostanza tutto ciò che avevo tanto desiderato nelle mie passeggiate da non potermi decidere a rincasare, perché mi sembrava di vedere gli alberi dischiudersi, animarsi. Ciò che desideravo allora così febbrilmente era stata sul punto, se solo avessi saputo capirlo e ritrovarlo, di farmelo gustare sin dalla mia adolescenza. Più completamente ancora di quanto avessi mai creduto, Gilbert era davvero, a quel tempo, dalla parte di Meseglise. E persino quel giorno che l'avevo incontrata sotto il portone, sebbene non fosse quella Mademoiselle de Lorgeville che Robert aveva conosciuta nelle case d'appuntamenti e che bizzarra coincidenza essermi rivolto per il chiarimento proprio al suo futuro marito, non m'ero affatto sbagliato sul significato del suo sguardo, né sulla specie di donna che era, e mi confessava adesso d'esser stata. «È tutto così lontano», mi disse. «Non ho più pensato che a Robert dal giorno che ci siamo fidanzati. E, vedete, non posso neanche dire che siano quei capricci infantili che mi rimprovero di più». Marcel Proust. Albertine scomparsa. Alla ricerca del tempo perduto, sesto volume, letto da Lino Guanciale. Traduzione di Giovanni Raboni. Regia Flavia Gentili. Tecnici del suono Stefano Cattaneo, Federico Slaviero, Paolo Sant'Ambrogio, Ivan Novelli. Studi di registrazione Stripe Studio Milano, Soundwood Roma, 24 gradi Recording Studio Roma. Montaggio Paola Fornasier e Giorgio Ferrante. Una produzione Emons Audiolibri. Seguiteci su www.emonsedizioni.it e sui social network. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.